ricominciamo da capo. Ma ho oltrepassato il valico dei 70 anni, può dire qualcuno. Beh, Sant'Alferio, che è fondatore dell'abbazia di Cava dei Tirreni, un ramo della grande famiglia dei Benedettini, Sant'Alferio, volete sapere quando si è convertito? A 72 anni. Io quella vita lì l'ho letta e riletta, perché è un incanto che un tizio si converta a 72 anni, quando ormai le abitudini sono diventate come una seconda natura. Certe abitudini specialmente, ecco, che degradano la nostra persona, la privano della sua dignità, la mettono al livello degli animali, peggio ancora, perché gli animali non peccano. Com'è possibile a 72 anni? E Alferio, uomo della politica del suo tempo, uomo di governo, ricomincia come fosse un ragazzino a 72 anni, e la provvidenza gli ha dato di vivere in modo così degno da diventare il fondatore di quella bella famiglia benedettina di Cava dei Tirreni. È uno dei posti più prestigiosi d'Italia e del mondo. L'abbazia dei Benedettini è uno spettacolo. E la provvidenza gli concede di campare 120 anni. Capite? Come Dio è generoso con chi ricomincia da capo. Ha incominciato, si è convertito a 72 anni. Ma sapete cosa vuol dire convertirsi a 72 anni? Quando uno, per esempio, avesse il vizio della bestemmia, o avesse l'abitudine brutta di imbrogliare il prossimo e fare della vita tutta una menzogna, capite? Torna indietro a 72 anni. Ma se facciamo così fatica a quell'età a rinunciare a una piccola abitudine, supponiamo, non so, il bicchierino di cognac appena sveglio, non so, uno è abituato che non va a letto la sera se non beve un bel bicchierone di latte caldo, guai se manca una sera. Se facciamo fatica a perdere le buone abitudini innocue, pensate voi che fatica rinunciare ad abitudini cattive, che si radicano come polipi, proprio si radicano come sanguisughe alla nostra povera persona. Eppure, io vi ho nominato padre Leopoldo Mandis, che fino a 68 anni aveva fatto sempre il degnissimo cristiano, sacerdote, francescano, e la Madonna dice a lui: ricomincia da capo. E quest'altro, Alferio, che è tutt'altro che un santo, fino a 72 anni, quando un uomo ha le tasche piene di soldi e poi fa la carriera politica, la politica che ha dei risvolti così umilianti e vergognosi, la politica in genere, gli uomini della politica se non stanno attenti, come facilmente diventano persone dalla coscienza larga, eh? Oh, le dottrine di Machiavelli purtroppo rivivono sempre nei risvolti della politica. 72 anni questo uomo della politica e sente schifo, ribrezzo della sua vita passata, e da quel punto lì dice basta, basta, e Dio lo premia. E questo uomo politico dalla coscienza ambigua sarà sacerdote, fondatore di un ramo di Benedettini. E Dio lo premia, lo lascia al mondo fino a 120 anni. Fate voi la somma, eh? Dai 72 ai 120, e vegeto fino a quell'età, sicché l'ultima quaresima, è morto il giovedì santo, l'ultima quaresima l'ha vissuta con tutti i digiuni che praticano i benedettini più giovani. Precedeva i giovani nei digiuni, nelle astinenze, nella flagellazione, nelle discipline, anche l'ultimo anno di suoi 120 anni. Poi la messa del giovedì santo, allora si faceva al mattino, è l'ora della messa e lui è pronto in piedi, è il primo che si alza a 120 anni. Ha preparato diversi sacchetti di elemosine per i poveri, che ha invitato alla messa del Giovedì Santo. Poi dice ai suoi frati: adesso voi andate a fare la piccola colazione, che io desidero continuare il ringraziamento della mia messa. Lasciatemi nella mia cella, che continui il ringraziamento della mia messa. I frati, i benedettini di Cava dei Tirreni, vanno tutti a fare la colazione, Giovedì Santo, è la cena del Signore. Ma il padre non viene, lo vanno a cercare. Ma ha detto che andava a fare il ringraziamento alla messa e difatti lo trovano nella sua cella, con le braccia alzate, come uno che vola, che sta ringraziando il Signore. E lo chiamano, non risponde più. È morto così, nel fare il ringraziamento alla messa del Giovedì Santo del suo 120° anno di vita. Sono casi, oh, ma il Signore è inesauribile quando ci si mette in gara con Lui. Vince sempre nell'amore, vince sempre nella generosità. I miracoli non esauriscono menomamente l'onnipotenza di Dio. Abbiamo ripassato sul catechismo. Dio può far tutto ciò che vuole, Egli è l'onnipotente. È uno dei fatti più belli della storia dei santi, questo di Sant'Alferio.